Pratale. Pratale mi è sempre sembrato un gran bel nome. Ricorda il nome dell'ultimo mese di primavera per il calendario della rivoluzione francese, Pré-Rial. Lo so, si traduce con pratile, ma è solo per far rima con il precedente fiorile, che è Floreal. L'accostamento ovviamente non è mio, ma è della persona che per primo mi ha messo di fronte a questo posto e alla sua storia nel lontano 1967. Ero in terza media e avevo un professore di lettere singolare e bravissimo. Un buon maestro, si direbbe oggi, come non me ne sono mai mancati, per fortuna, nel corso della mia vita non solo scolastica. Si chiamava Giorgio Pagliazzi ed era un omone grande, un po' curvo. Lui non era uno di quei professori che ti dicono studiate da pagina tot a pagina tot. No, no, lui era più facile che una mattina arrivasse e ci domandasse che cosa avete visto ieri in televisione? E se qualcuno rispondeva un romanzo sceneggiato. Sì, perché allora in televisione c'erano i romanzi sceneggiati. Anche la televisione era una buona maestra. Se un mio compagno, insomma, diceva il Conte di Montecristo, beh, lui era da lì che partiva. Ed era sempre un viaggio pieno di rimandi, di incanti, di incastri tra storia, geografia, letteratura ed educazione civica. Sì, sì, lui era uno che ci teneva all'educazione civica, ci teneva che i suoi allievi diventassero dei cittadini educati. Una mattina ci disse che era stato a Badia a Passignano, qua sopra, e che aveva visto sui muri del castello una lapide. Questa, e che su questa lapide c'era scritto al ricordo di Cresti Angelo, Cresti Attilio, Cresti Oreste, Gori Bruno, Gori Giuseppe, Gori Livio, Gori Marcello, Gori Omero, Gori Serafino, Lotti Giuliano, Lotti Carlo, Raspollini Giovanni, trucidati dai tedeschi la sera del 23 luglio 1944 in barbara rappresaglia. Il comune di Tavarnelle Valdipesa pose monito alle generazioni future di quanto sia costata la riconquista della libertà e dell'indipendenza della patria. E poi ci chiese: qualcuno di voi sa cos'è successo? E una mia compagna, proprio di Badia, ci disse che quella cosa terribile era successa qui, a Pratale. E ci ripeté il racconto che la nonna gli aveva fatto di quella strage. La Seconda Guerra Mondiale, il fascismo, la lotta di liberazione, ma anche i mesi della Rivoluzione Francese e la nostra bellissima Costituzione, la geografia dei fronti di guerra e le pagine di Primo Levi, di Calvino, i versi di Quasimodo e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze. Insomma, tutto questo entrò in quel 1967 nella classe del professor Pagliazzi da Pratale e dal suo racconto. E da allora non c'è stata una sola volta che andando a Badia non mi sia soffermato a rileggerla, quella lapide. Sì, ma nonostante questo, ripensandoci oggi, non posso dire di sentirmi un buon allievo di tanto buon professore. Lui ci diceva di essere curiosi, di cercare di capire bene, soprattutto le piccole cose. Capire, mai passare oltre. E lui sempre ci chiedeva se avevamo capito. E non cambiava mai argomento finché non era sicuro che quel concetto, quella frase, quel passaggio non erano entrate nelle nostre zucche. Tutti dovrebbero avere un professor Pagliazzi nel loro curriculum scolastico. E invece io non ho seguito il suo consiglio. Ho guardato per tanti anni quella lapide e l'ho letta come un episodio della storia, uno dei tanti nell'elenco purtroppo infinito di barbarie perpetrate dai fascisti e dai tedeschi in quella guerra terribile. Non ho visto su quella lapide neanche i nomi, davvero. Ho visto un elenco, Non il singolo nome di 12 singole e irripetibili persone. Non ho visto il dolore di quelli che sono rimasti. Che cosa hanno saputo di quello che era successo ai loro cari, chi era con loro, chi li ha trovati, chi ha trasportato i cadaveri, come, quando. E soprattutto, chi personalmente ha sparato? Perché? Già, soprattutto perché quei 12 uomini morti, assassinati, una sera di luglio del 1944. E purtroppo, come me, hanno fatto in molti, quasi tutti. È un caso, uno dei tanti di rimozione collettiva, di accantonamento conscio o inconscio, chi lo sa, di sottovalutazione storica, uno dei tanti purtroppo. Le stragi impunite, addirittura non indagate, sono centinaia. Nel 1994 il procuratore militare Antonino Intelisano trova negli scantinati di Villa Cesi a Roma un armadio con le ante rivolte verso il muro. Sta cercando gli atti relativi alla strage delle fosse ardeatine. È incuriosito, fa girare l'armadio. Dentro trova 698 dossier relativi a crimini di guerra nazifascisti sul territorio italiano, dal 1943 fino alla liberazione. Materiale storico e processuale. Importantissimo. Nascosto per 50 anni. Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e centinaia di altri episodi grandi e piccoli. L'armadio della vergogna. Già, della nostra vergogna. E anche per Pratale, fino al 1995, l'unico documento sulla strage è la denuncia fatta dalle vedove ai carabinieri di Mercatale, datata 19 maggio 1945. Poi più nulla. Fino al 1995 nessun pubblico ufficiale, nessun singolo cittadino, nessuno studioso, nessuno storico, nessuno magistrato, nessun poliziotto e nemmeno un carabiniere. Nessuno indaga, cerca di capire, di ricostruire. E questi 50 anni si portano via fisicamente. La voce di tanti che c'erano. Inghiottono nonni, nonne, padri, madri, mogli, sorelle. Di quei 12 morti, voci perdute, andate per sempre. È una cosa che mi fa impazzire a pensarci. Solo con il cinquantenario della liberazione, 1995, si è cominciato a chiedere qualcosa di più. Beh, i progetti regionali, comunali, gruppi di appassionati che vanno a far parlare i sopravvissuti, i parenti. E non c'è da stupirsi che dopo 50 anni di silenzio alcuni di loro, dei pochi ancora in grado di parlare, insomma, di parlare poi ne avessero poca voglia in fondo, si fossero ormai chiusi in un dolore solitario e quasi muto. E comunque, si deve aspettare il 2004 per una ricerca un po' più approfondita sulla strage. Il comune di Tavernelle la commissiona allo storico Francesco Catastini e al sociologo Fabrizio Silei, che finalmente ha preso una telecamera e con gentilezza e pazienza ha chiesto a chi sapeva di parlare. Meno male che ora qualche risposta ce l'abbiamo, sì. Grazie soprattutto a Mirella Lotti, a Marcella Gori e a Adriana Cresti e a altri testimoni più indiretti della strage, che hanno vinto il loro dolore e hanno sconfitto anche la nostra dimenticanza, la nostra colpevole amnesia. Finalmente, già finalmente, ci siamo svegliati, ma un po' tardi. Il mio buon professor Pagliazzi non sarebbe contento, no? Perché chi ci ha parlato si aspettava una solidarietà da noi e soprattutto una risposta alla domanda che non ha mai smesso di farsi per tutti questi 68 anni. Perché? Perché questa strage dei loro cari? E nessuno ha dato loro una risposta, perché nessuno oltre loro sembra essersi fatto neanche la domanda, perché nessuno si è fatto la domanda quando si poteva ancora essere in tempo a rispondere. E quella risposta che non c'è fa sì che anche questo nostro trovarci qui oggi sia orfano in fondo. e gli dà un sapore di inutilità che mi tormenta dal momento che ho deciso di dare questa testimonianza, di venire qui oggi a raccontare di allora, di quegli uomini, ma anche di quelle donne, di quelle bambine di allora, di quei vecchi. Mi dispiace, non ho la minima idea del perché quei 12 uomini siano stati uccisi e non potrò dare sollievo a chi ancora se lo sta chiedendo. Ma sono qui lo stesso. Sì, sono qui lo stesso, perché non è nemmeno giusto che così pochi sappiano almeno quello che è successo, il modo, i tempi, il luogo, i luoghi. Perché questa lapide, come il cippo qua davanti, non sia una cosa vuota, retorica, perché davvero il monito alle generazioni future, ai ragazzi, sia più di un elenco, sia fatto di nomi veri, di visi, di riferimenti, di storie e di vita. Non è infrequente per queste strade incontrare dei cippi o lapidi bianche dedicati a chi uomo o donna o ragazzo qui viveva e amava e qui venne ucciso, fosse pure ribelle o fosse ostaggio. Sul marmo o sulla pietra o sul rosso mattone una scritta ricorda il terribile eccidio, ricorda tutti i nomi, ci sta pure una data e il sole se la mangia a braccetto col tempo che passa, ma tu che passi e poi procedi oltre, punto dal freddo buio della notte, davanti a questi monumenti scuri, nessun viandante fermerà i suoi passi e si confonderanno ai mucchi di sassi che il contadino fa al bordo del campo o il cantoniere ammucchia sulla strada nella luce di un giorno senza data. Sul marmo, sulla pietra o sul rosso mattone una scritta ricorda il terribile eccidio, ricorda tutti i nomi, ci sta pure una data e il sole se la mangia a braccetto col tempo che passa. E allora leggiamo ancora i nomi. I nomi di quei 12 uomini. Angelo Cresti, Attilio Cresti, Oreste Cresti, Bruno Gori, Giuseppe Gori, Livio Gori, Marcello Gori, Omero Gori, Serafino Gori, Giuliano Lotti, Carlo Lotti, Giovanni Raspollini. I nomi sono importanti. I numeri suggeriscono l'orrore, danno l'esatta misura dell'enormità della strage, ti dicono lo spazio che quei 12 uomini occupavano ancora vivi in questa piccola radura, ti dicono il tempo che è stato necessario per abbatterli, ti dicono la ferocia dei soldati tedeschi che hanno sparato, ognuno pensando che 12 uomini davanti a loro potevano essere privati della loro vita e che di queste vite non sarebbe stato chiesto a loro di rendere conto. E purtroppo fino a oggi sono gli assassini ad aver avuto ragione. Ma ci sono i nomi sono importanti, più dei numeri. I nazisti chiamavano gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, gli avversari politici che pigiavano sui loro carri bestiame verso i campi di concentramento, verso Auschwitz-Birkenau, verso Bergen-Belsen, verso Mauthausen, verso le camere a gas e i forni crematori. Chiamavano questi esseri umani Stucke. Sì, pezzi, colli, numeri. E appena arrivati al campo, qualsiasi campo, tatuavano un numero sul loro braccio. E quel numero sostituiva in tutto e per tutto il loro nome, un nome che una volta perduto portava via con sé l'essenza umana stessa di quell'essere. Allora i nomi, uno per uno, di quel 23 luglio 1944. I nomi di chi c'era, i morti e anche chi sopravvisse. Oreste Cresti era il più vecchio dei 12 assassinati. Aveva 68 anni. Con lui muore il figlio Angelo, 35 anni, e il fratello Attilio, 59 anni. Sono in 6 in famiglia. Beppa, moglie di Oreste, Ada e Adriana, moglie e figlia di Angelo. Lui non era militare perché per un problema a un occhio l'avevano riformato, ma alla guerra ha comunque pesantemente segnato la famiglia. Suo fratello Livio è stato richiamato e spedito sul fronte greco-balcanico e da lì non è più tornato, almeno non da vivo. Non è finita. Il marito di una figlia di Oreste, partito per il fronte russo, scompare durante il terribile inverno tra il 42 e il 44. È un altro nome tra le migliaia di dispersi dell'Armir. I Cresti dividevano con i Gori quella grande casa lì, quella che avete visto prima di arrivare, il casalone che ora è diventato un bell'agriturismo. Vengono da Badia a Passignano, dove il cognome Cresti è molto diffuso. Il grande pittore, il Passignano, gloria del luogo, nasce nel 1559 proprio a Badia e si chiama Domenico Cresti. Tutte e quattro le famiglie lavorano a Mezzadria, come quasi tutti in questa zona, su una terra cioè che non è loro, e si spaccano la schiena per dare al padrone la metà di tutto quello che producono. I tedeschi sono comunque dei padroni ancora più esosi e dal loro arrivo hanno razziato tutto a tutti, bestie, grano, vino, olio, perfino i prodotti dell'orto. E poi ci sono i Gori. I Gori sono una bellissima e molto numerosa famiglia allargata. Sono a Pratale sicuramente da prima del 1930 e hanno un bel potere grande che lavorano tutti insieme. Angelo Gori, il capoccia, è già vecchio in quel 1944. Da Giulia Lazzarini ha avuto 6 figli maschi. 3 di loro si sono trasferiti, ma 3 sono ancora sul potere con lui. E tutti e 3 vengono uccisi dai tedeschi quel 23 luglio. Sono Livio, 54 anni, Giuseppe, 52, e Serafino, 44. Con loro ci sono Ida e Marisa, moglie e figlia di Serafino, detto Pallino. Ci sono i figli di Livio, che è vedovo, che sono la piccola Marcella, e i 2 figli maschi, anche loro assassinati, Omero, 21 anni, e Marcello, di 2 anni più giovane. Giuseppe, classe 1892, invece è celibe. In quasi tutte le famiglie contadine c'è la figura dello zio Pinzo. E Beppino si dice fosse una sagoma, piccolino, simpatico, pare anche un po' gobbettino. Quando i tedeschi all'inizio del 44 razziarono le bestie a tutti i mezzadri della zona di fronte alle proteste generali anche di quelli che all'inizio avevano appoggiato il fascismo, disse papale papale a tutti: li avete voluti i neri? Bene, ora ve li pigliate. I 5 uomini validi di casa vengono inghiottiti da questa tragedia, da questa cosa inconcepibile. E insieme a loro muore anche Bruno Gori, 24 anni, renitente alla leva fascista, cugino di Omero e Marcello, che abitava a Firenze e che cercava a Pratale un nascondiglio per non essere catturato e spedito al fronte o in un campo di prigionia tedesco davanti a un plotone di esecuzione. Come Bruno Gori, anche Giovanni Raspollini era un militare che aveva rifiutato la chiamata alle armi a fianco dei tedeschi della Repubblica di Salò. Aveva 22 anni ed era tornato a casa dopo l'8 settembre. Abitava alla Sambuca con la sua famiglia, alla Bricola, poco prima del paese, venendo dalla Cassia, neanche 2 chilometri da qui. Ma i Raspollini erano sfollati a Pratale dai Cresti il 20 o il 21 di luglio, perché la loro zona era diventata un inferno di cannonate per via del ponte sulla Pesa. Con lui a Pratale c'è il padre Maurizio, la madre Ida Rigacci, i nonni Serafino, che tutti chiamano Serafo, e la nonna Vittoria Bucciarelli, che tutti chiamano Serafina. C'è anche il fratello diciottenne, Rino, malato di tifo e continuamente bisognoso di cure. Anche i lotti sono a Pratale da sfollati, come i Raspollini. Loro venivano da Fabbrica e la loro casa era stata minata a fine giugno. I tedeschi vogliono farla saltare perché si trova sulla direttrice dell'avanzata delle truppe alleate. Per parlare di loro, scusate, ma cambio la prospettiva. Parto da Mirella, la più piccola della famiglia, 8 anni all'epoca dei fatti, ma tuttora una straordinaria testimone di quei giorni. Ada Vermiglia è sua madre, ha 29 anni ed è una donna forte e giusta. Anche la sua zia Sandrina, che ha 22 anni e a Mirella è molto legata, è a Pratale in quell'estate del 44. Suo padre Giuliano aveva 30 anni, riformato per via di una brutta pleurite. Era un bell'uomo gioviale che sapeva sorridere e non c'era una volta che andasse in paese a Tavarnello, a San Casciano, e che i fascisti o i carabinieri non lo fermassero credendolo un renitente alla leva. Suo padre Carlo, il nonno di Mirella, di anni ne ha 60 e una storia alle spalle simile a quella di tanti altri contadini in tutta Italia, ma che proprio per questo credo valga la pena di essere raccontata. Ha fatto la Grande Guerra lui. È partito tra i primi nel maggio del 1915. Sì, il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Lui era uno di quei primi fanti. Fu fatto prigioniero però Carlo in uno dei primi scontri con gli austriaci e si fa 3 anni di campo di prigionia, dove ha imparato un po' di tedesco. Torna a casa a guerra finita e trova una sorpresa. Oltre a Giuliano, che gli era nato nel 1914 e che aveva lasciato quasi in fasce, trova Annita, una bella bambina nata all'inizio del 1916, 9 mesi esatti dopo la sua partenza. Lui non ne sapeva niente, nessuna notizia gli era potuta arrivare nei 3 anni di prigionia. Nel salotto di Mirella c'è una splendida fotografia. Eccola qua. L'ha fatta fare Italia. Italia Collini, la moglie di Carlo che morirà nel 1939. C'è Italia in un bell'abito nero, c'è Giuliano vestito alla marinara, treenne, e la piccola Annita nel centro. Italia ha cercato di far arrivare questa fotografia a suo marito, dietro c'è anche una bella dedica, ma come tutte le lettere che gli ha mandato in prigionia, le è tornata indietro. E ora è nel salotto di Mirella. Carlo Lotti viene da una famiglia di 12 figli. Dei 9 maschi, 8 fanno il loro dovere in difesa della patria nella Grande Guerra. Miracolosamente, 7 di loro tornano a casa illesi da quell'esperienza. Solo uno, Sandro, morirà di polmonite contratta in trincea. In suo onore, l'altra figlia di Carlo si chiamerà Sandrina. E questo la dice lunga sul contributo dei contadini alla vittoria nella Grande Guerra. Mi ricordo oramai tanti anni fa di Sabatino, un ragazzo del 99, con la faccia scavata dal sole e dalle intemperie, un contadino. Lui raccontava volentieri della Grande Guerra. Una cosa che mi disse mi è rimasta proprio impressa. Lo sai che a volte domandavano chi è che sa fare i disegni? L'ingegnere, il contabile, il geometra. Bah, c'era tutto il reggimento schierato e c'era uno o due che alzava la mano. Poi chiedevano chi è contadino? E sembrava un canneto. Tutti con le mani alzate. 600.000 morti italiani. 500.000 contadini arrotondando per difetto. Grandi lapidi, zeppe di nomi, monumenti in ogni piazza di ogni città o paese d'Italia. Ma a quei contadini era stata promessa la terra, quella del latifondo a sud e della mezzadria al centro e al nord. Ma la guerra è finita e la terra è rimasta ai padroni, alla faccia dei vivi e dei morti. La mattina del 5 d'agosto si muovevan le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cade a rovescio grandinavan le palle nemiche, su quei monti, colline e gran valli si moriva dicendo così: oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Oh vigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sul letto di lana, schernitori di noi carne umana, e questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa guerra al di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Abbiamo parlato delle persone, ora parliamo della storia. Andiamo a quel 23 luglio 1944. Già il 23 luglio 1944. Cosa successe quella domenica 23 luglio? I neozelandesi liberano Tavernelle a metà della strada tra Siena e Firenze, 5 chilometri a sud di qui. Tutti si aspettavano gli americani, ma era difficile che gli americani arrivassero per primi, eh? Meglio gli inglesi, ma più ancora, più facile, i sudafricani, i marocchini, come Poggi Bonzi, gli indiani, i brasiliani, che dicono di essere stati i primi ad arrivare a Firenze il 5 d'agosto. E poi ci sono i neozelandesi. Già, i neozelandesi. Oggi c'è tanta gente che sbraita perché dice che si deve pensare ai problemi che ci sono a casa nostra invece di andare in Afghanistan con i nostri soldati, in Libano, a Baghdad. Oh, per carità, non mi piacciono neanche a me queste missioni di guerra camuffate da missioni di pace umanitarie, ma non perché le si combattano lontano, no, ci mancherebbe. È che penso a questi neozelandesi, io, che vengono dalla parte opposta di mondo e che si fanno ammazzare, e in tanti, per liberare noi. Ne muoiono una quarantina solo nel comune di Tavernelle. Bella gente, no, davvero, eh? Chiamavano il nostro paese Beloved Italy, Beloved Florence. Nelle lettere scrivevano ai loro cari: amata Italia, amata Firenze, eh? Onore a loro. La guerra intanto in giro per il mondo faceva il suo corso. Dappertutto, o quasi, le truppe dell'asse sono in difficoltà. Nel Pacifico gli americani e i giapponesi ancora sono di fronte ad armi pari. Ma dopo le sconfitte in Africa, in Europa, il fronte è caduto da tempo, il fronte est, E i russi stanno avanzando. Dal 6 giugno gli alleati sono sbarcati in Normandia. E da noi avanzano, lentamente, ma avanzano oramai dal 9 luglio dell'anno prima, quando sono sbarcati in Sicilia. Poi, il 22 gennaio 44, altro sbarco ad Anzio, a sud di Roma, dove arrivano il 4 di giugno. Un mese e mezzo circa e sono qua, a pochi chilometri da Firenze. Ma i tedeschi, forse proprio perché sentono cadere quella sicurezza nella vittoria finale che li aveva spinti fino a quel momento, si fanno più duri e feroci. Il 20 luglio c'è stato il fallito attentato a Hitler. Hanno risparmiato Roma rispettando il suo status di città aperta, ma non risparmieranno Firenze, come si sa. Ritirandosi si stanno lasciando dietro una scia di violenze, di sangue, di rappresaglie, di stragi vere e proprie, spesso su cittadini inermi. Nella sola Toscana colpiscono 83 comuni per un totale di 4.000 vittime. Non smetteranno che alla fine delle ostilità. In questa zona i tedeschi arrivano intorno al 10 di luglio del 44. Fabbrica è in posizione assolutamente strategica. Domina tutta la Valle della Pesa, il Ponte Nuovo, una bella fetta della Cassia. Piazzano una batteria antiaerea al Poggio del Gallo, facendo piazza pulita di una intera bellissima oliveta. La villa poi ha un torrino centrale molto alto, 4 metri più alto della più alto tetto. Verrà distrutto dai bombardamenti. L'ha fatto costruire qualche anno prima il conte Piatti. Sì, l'ha fatto costruire con l'ambiziosa quanto improbabile intenzione di vedere Genova da lì, la sua città natale. I Gori e i Cresti, i tedeschi ce l'hanno in casa, non è un'esagerazione, no, al Casalone, lassù, come si chiama la casa dei Gori e dei Cresti, si è installato un ufficiale tedesco con due attendenti e c'è un bel via vai, di militari in divisa scura e la vita a Pratale scorre tra infiniti sussulti di paura. Tutto comunque succede in un pugno di giorni prima di quella domenica 23 luglio. Il primo episodio è il sequestro dei più giovani e validi uomini presenti in casa. Omero, Marcello e Bruno Gori insieme a Giuliano Lotti vengono prelevati e portati via una mattina dai tedeschi. Siamo intorno al 10 di luglio. Paura, timore che sia un rastrellamento, che gli uomini vengano portati addirittura in Germania. Ma tornano dopo alcune ore. Sono soltanto stati costretti a scaricare dei grossi camion con dei grandi rotoli di filo telefonico e a stenderlo tra Fabbrica e Villa Antinori, più a nord. A Fabbrica facevano capo diverse linee telefoniche a conferma dell'importanza del comando. È per questo che gli abitanti di Fabbrica, chi prima chi dopo, sono tutti costretti a sfollare, e alcuni più di una volta. Meno male che la solidarietà e l'ospitalità sono cose che non fanno difetto tra i mezzadri. E durante uno di questi sfollamenti, ordinato dai tedeschi in piena notte, Francesco Vermigli, che ha sposato nel 1960 Mirella Lotti e che allora a 14 anni vede tutto intorno al cimitero di Fabbrica un enorme spiegamento di forze tedesche. Carri armati Tigre, pezzi d'artiglieria, camion, motociclette, addirittura cavalli. E anche soldati, soprattutto soldati, che riposano in mezzo ai campi e anche sulla strada. S'aveva una gran paura di mettine sotto qualcheduno il carro. Oltre alla paura che qualcuno si svegliasse con la luna storta, ma quei soldati che si svegliano al loro passaggio chiedono pane. Mi fecero una gran pena, ci dice ancora Francesco. Era il grosso delle truppe che si ritirava, in estrema difficoltà per gli approvvigionamenti, che non riuscivano più ad arrivare, lasciando comunque in piedi a Fabbrica quel comando che se ne andrà soltanto con il giorno 25. Della presenza invece del farinaio nella zona si parla già diversi giorni prima della strage. Tutti lo citano con questo soprannome piuttosto strano, Nei documenti ufficiali il suo nome vero è sostituito da un omissis. Anch'io rispetterò questa consuetudine. Il personaggio è a dir poco ambiguo, la sua frequentazione quasi assidua con gli occupanti tedeschi provata da diverse testimonianze. Documenti ufficiali dell'aprile-maggio 1945 lo danno tra i sospettati del saccheggio della villa del Conte Piatti, ma un altro documento ufficiale accerta la sua presenza tra gli antifascisti che all'indomani del 23 luglio 1943 aprono a forza la casa del fascio di San Casciano e fanno a pezzi il ritratto di Mussolini e tutti gli emblemi fascisti. Il farinaio comunque è presente in Casagori e passa diverse ore in visita ufficiale. In visita, sì, in visita ai soldati ospitati proprio tra quelle mura. Carlo Lotti lo guarda con grande sospetto e consiglia sia il figlio Giuliano che gli altri giovani a non farsi vedere troppo quando lui è nei dintorni, perché teme che faccia una spiata, li mandi tutti sotto processo. È il 21 di luglio, venerdì, quando si annuncia la partenza dei tre tedeschi presenti nella casa. Significa certamente che gli alleati sono vicinissimi, che la liberazione è questione di pochi giorni. Prima di andare pretendono ovviamente che gli sia pronti un buon pranzo e le donne cucinano quello che è rimasto. Poi, assolutamente inaspettato, portano una specie di regalo da Dio. Siamo stati bene qui, pare che dicano ai capoccia dei Gori, dei Cresti, e consegnano due paia di bovi, uno per ciascuno. È ovvio che nei ricordi di Mirella Lotti, allora una bambina di 8 anni, questi tedeschi appaiono buoni, soprattutto se messi a confronto con quelli che arriveranno 2 giorni dopo. Ma a Marcella Gori, che era un po' più grande, con la sua dolente, straordinaria lucidità, dice testualmente: «Bagli erano buoni, sì, di molto buoni. Almeno dicevano che gli erano buoni. Poi saranno stati cattivi anche loro, perché in dove l'avevano prese le bestie, gli erano stati cattivi. L'avranno rubate, no? Rubate di certo». Insieme ai tedeschi, però, c'è anche il farinaio. Anche lui beneficiato dalla generosità germanica. Anche lui con un paio di bovi. Ma colpisce tutti la sua espressione rapace, come di chi non s'accontenta. E quella del farinaio è rapacità vera. Il giorno dopo Serafino Gori lo incrocia sulla strada. Pretende il farinaio che gli vengano consegnate le bestie avute il giorno prima, le sue e quelle dei Cresti. Al rifiuto di Serafino, il farinaio risponde con una minaccia: «State attenti, stai attento, perché a me mi preme più la camicia che la pelle». Serafino Gori non si è scomposto e a me preme poco sia quella che quell'altra, e tira di lungo. Ora, questi episodi e la sua dubbia fama mettono il personaggio al centro dei sospetti per quello che avvenne appena il giorno dopo. Una spiata, una denuncia per impossessarsi di quello che voleva fare suo, denunciare gli occupanti dell'Asa di Pratale di collaborazione con i partigiani, di essere loro stessi dei patrioti? Sono solo sospetti, prove non ce ne sono. La prima denuncia delle vedove e dei parenti si incentra così sul farinaio, ma non ha seguito, anche se pare dai documenti ufficiali che una vera e propria inchiesta, anche un'inchiesta qualsiasi, una ricerca almeno, seppure sommaria, incompleta, un sopralluogo, una raccolta di singole testimonianze non c'è mai stata. E perfino le vedove, le figlie e le nipoti di quei morti finiscono quasi subito per ammettere di non riuscire a credere che si possa ammazzare, far ammazzare per delle bestie. Eppure la storia ci dice che alle volte proprio in quella guerra si è ucciso e fatto uccidere per molto meno. Ma torniamo ai fatti. È la notte del 22, la notte tra sabato e domenica. Come già succedeva da un paio di giorni, Livio Gori con la figlia Marcella insieme a Carlo Lotti e a Sandrina passano la notte a Pratale di Sopra, poco lontano da qui, dal Sardelli, perché dai Gori si sta veramente troppo stretti. Ci sono altre famiglie della Sambuca, i Guarducci, i Chellini, perché giù al piano, in Pesa, si è scatenato l'inferno di cannoneggiamenti alleati che ovviamente non risparmiano neanche fabbrica. La notte è illuminata da bagliori di esplosioni. Un testimone parla di un terremoto di botti, di baleni da fuochi d'artificio. All'alba del 23 a casa Sardelli arrivano i tedeschi e ordinano a tutti di andare via in fretta e furia. C'erano, pare, una sessantina di persone in quella casa, tra cui la moglie del farinaio con i 3 figli piccoli. E tutti decidono di muovere verso Badia e le sue cantine a prova di bomba. Si convincono che è la cosa da fare anche Livio Gori e Carlo Lotti, che tornano a Pratale di Sotto, al Casalone, dal resto delle loro famiglie per organizzarsi e andare tutti insieme al castello di Badia. Le famiglie della Sambuca nel frattempo se ne sono andate perché si vedono le camionette alleate correre lungo il lungo Pesa. Livio, Marcella, Carlo e Sandrina arrivano al Casalone, ma insieme a loro arrivano altri tedeschi. Uno si fa medicare una ferita alla mano, sono 3, poi via, se ne vanno. Finalmente, verso fabbrica. Ma ne arrivano degli altri, 4, 5, che prima danno loro il permesso di spostarsi verso Badia. Poi, quando già stavano per andarsene, li bloccano. Sono forse le 10 di mattina quando chiedono alla massaia dei Cresti un panno bianco grande. Ada dà loro un lenzuolo, che i tedeschi appendono ad una delle finestre del piano superiore che guarda fabbrica. Quel lenzuolo rimane esposto tutto il giorno, badate. Non può essere una bandiera bianca, un simbolo di non aggressione, perché altrimenti sarebbe stato esposto verso sud, verso la Sambuca, o altrimenti verso est, verso Badia, sulla cui strada si intravedono già le camionette alleate. Sembra più un messaggio rivolto ai tedeschi, ai commilitoni che ancora tengono fabbrica. È un altro dei misteri di quel giorno. Passano le ore e prima di sera i tedeschi chiedono che gli si appronti la cena. Sono 4, 5, pochi comunque. I capoccia di tutte le famiglie esortano le donne a mettere in tavola quello che c'è. Tutto il possibile, forse si tira il collo anche all'ultima gallina rimasta. Quei soldati sono l'ultimo ostacolo, dopo lo sentono. Tutti arriveranno gli americani. Tutti intorno infuriano i combattimenti, ma quei soldati sembrano infischiarsene. Mangiano e non fanno una piega. I Gori, Cresti, Raspollini, Lotti sono inquieti, mangiano anche loro qualcosa, poi vanno tutti nella stalla, che ha le mura più spesse e può riparare meglio dalle bombe. Ma Carlo Lotti è inquieto. Lui ha fatto la grande guerra, lui probabilmente sente meglio degli altri che quei militari nelle loro divise mimetiche, armati di mitra, di pistola, non sono certo tedeschi buoni, non riconosce i simboli delle divise, probabilmente sono paracadutisti delle truppe d'assalto, famosi per la loro stupida ferocia, emuli delle famigerate SS, e comunque non gli garbano per nulla. È un attimo, un attimo. Sono le 7:30 di sera. A spalancare la porta della stalla sono 6-7 soldati, più di quelli a cui hanno preparato la cena, e sono tutti armati fino ai denti. Ordinano a tutti di scendere al bosco tra Pratale e fabbrica. Li fanno fermare. Appena entrati nel folto, in una radura che chiamano il Doccino, perché c'era una fonte per l'acqua. Questa è la radura. Eccoli qua, tutti in fila, sotto la minaccia dei mitra, 29 persone, 16 uomini e 13 donne, tra cui 4 bambine, una di 4, 2 di 8 e una di 14 anni, Adriana, Mirella, Marisa e Marcella. Tra gli uomini ci sono 2 anziani ultra settantenni, Angelo Gori e Serafo Raspollini, un ragazzo di 19 anni, Rino Raspollini, malato di tifo, con la febbre altissima, tenuto sulle spalle dal padre Maurizio. Tutti insieme stanno in questa radura per più di mezz'ora, mentre cala il buio fitto. Sandrina Lotti chiede a Carlo: «Babbo, bambino, ma che ci ammazzeranno?» E il padre risponde: «Eh sì, Sandrina, mi garba un poco. Ho proprio paura che ci ammazzino.» Marcella Gori sente distintamente uno dei militari dire in un italiano stentato: «Voi amate gli americani, ma non li vedrete.» 2 o 3 aguzzini Sono tornati nelle case, le mettono a soqquadro, certamente non trovano niente e al loro ritorno la decisione, via le donne, i vecchi, i malati, un attimo di smarrimento. Poi la piccola Mirella, che è in braccio al padre Giuliano, si stringe forte a lui, grida di non lasciarla, che i tedeschi lo ammazzeranno, ma un soldato, un tipo giovanissimo, biondo, la strappa dalle braccia di Giuliano e la scaraventa a terra. Lei piange, zia Sandrina, la raccoglie, la prende in braccio per proteggerla. Ada si aggrappa al suo uomo. È una donna battagliera. Non vuole lasciarlo. Ma un altro soldato tedesco la colpisce una, due, tre volte alla schiena con il calcio del fucile finché Ada non cade a terra. Ordini urlati, perentori, via le donne! Gli invalidi, cioè il vecchio Angelo Gori, Serafora Spollini e il nipoterino che ormai delira per la febbre. I tedeschi hanno ordinato al padre Maurizio di portarlo via e mandano anche lui con le donne. Gli uomini validi rimangono qui. Anch'io vorrei rimanere qui con loro. Vorrei sapere cos'è successo dopo che le donne se ne sono andate giù per il bosco, scortate da un tedesco armato di pistola. Giù, per questo viottolo. Mentre tutti intorno i cannoni suonavano, i proiettili fischiavano. Vorrei vedere. Vorrei capire come quei soldati hanno potuto guardare in faccia quei 12 uomini e prendersi le loro vite. Ma non posso. Non ci sono voci, non ci sono testimoni né memoriali che raccontino quegli attimi dopo la separazione. Posso azzardare delle congetture, inventare. Ma non è questo il momento. Posso seguire le donne, invece. Il loro affannarsi nel buio, dentro il folto del bosco. Non c'è neanche la luna. Il tedesco che le scorta non ha una torcia, ha solamente la pistola e con quella le minaccia. Calano giù, fino al burro. Qui, calano e lo attraversano con terrore, fino al punto dove nel 1955 sarà fatto il lago. Poi ancora più su. Sono diretti al rifugio scavato dai contadini della zona sotto il Sardella, Pratale di Sopra. Una specie di grotta con l'entrata ricoperta da qualche frasca. A poco più di metà del tragitto, il tedesco le lascia e torna indietro. Al ponte della Parancola, poco più su, c'è soltanto un asse sopra il Fiumiciattolo. E loro riattraversano il burro. Ma la nonna dei Raspollini cade, malamente, scivola, si ferisce alla testa. Il figlio Maurizio posa a terra il suo figliuolo, Rino, che teneva sulle spalle, e aiuta la madre a rialzarsi. Poi riprende il suo amatissimo fardello e via, tutti in salita. Su, verso il rifugio. Poco prima Ada ha sentito qualcosa, forse una raffica, forse un grido. Dice alla Beppa Cresti: Beppa, Beppina, io ho sentito urlare. Ma l'anziana massaia, forse per rassicurare se stessa più che Ada, dice che saranno stati i fischi delle granate, delle cannonate, che lei non ha sentito nulla. Arrivano alla grotta, al rifugio. Prima del passaggio della guerra, i mezzadri lo usavano per macellare i vitelli. Ora accoglie gli scampati di un macello d'uomini. Passano lì tutta la notte. Nessuno riesce a dormire, no. Solo le bambine dormono qualche attimo di sonno agitato. Il ragazzo Rino delira, chiede acqua, è completamente disidratato. Senza acqua il tifo se lo sta divorando. Sua madre cerca di soccorrerlo, ma non può fare nulla. La nonna ha il viso ricoperto di sangue per la caduta. Lui morirà pochi giorni dopo all'ospedale di Siena. Sono le 4:15 e un po' di luce si diffonde appena fuori della grotta. Le donne adulte, Beppa e Ada Cresti, Ida Gori, Ada e Sandrina Lotti, lasciano le bambine con i vecchi e con il malato e quasi di corsa in quell'alba che annunciava un'assolata giornata di luglio percorrono a ritroso il cammino del bosco che avevano fatto appena sette ore prima nel buio. Ora c'è la luce, ma l'angoscia è la stessa, ognuna di loro spera che i suoi uomini siano stati rimandati a casa, sì, che le stiano cercando, che siano stati anche bastonati, ma anche feriti, anche portati via, tutti lontano in Germania, ma siano vivi e che ci sia almeno la speranza di poterli riabbracciare. Ma lungo la viottola c'è un corpo, il sangue gli macchia la camicia all'altezza dell'addome, è Giovanni Raspollini ed è morto. Allora le donne si mettono a correre con il terrore che oramai si è divorato la speranza. Ce li hanno ammazzati tutti morti. Tutti. Sono tutti morti. Qui, dove li avevano lasciati, caduti come birilli nell'erba, ognuno nella stessa posizione che aveva quando le donne erano state portate via. Una strage. Solo Bruno Gori. Lui sembra aver fatto un movimento verso gli assassini, forse un passo avanti, portando le mani così, protendendole in avanti come per ripararsi quando i mitra avevano cominciato a sparare. Le sue dita sono spezzate dalle pallottole come gli altri, e al capo che è stato colpito. Giovanni Raspollini sicuramente ha provato a scappare, forse un secondo prima che gli assassini facessero fuoco si è buttato nel bosco di corsa alla disperata, forse gli altri l'hanno invidiato, sì, appena l'hanno visto schizzare via come una lepre, ma poi anche lui ha trovato la morte, forse ha incrociato il tedesco che tornava dall'aver piantonato le donne. Fatto sta che ha due pallottole di pistola e non di mitra nell'addome. E qui nella radura del Doccino, hanno sparato all'impazzata, fatto sta che ogni corpo è colpito da 4-5 pallottole e anche il bosco sembra ferito. Rame di quercia spezzati, i tronchi segnati dai colpi, una ferocia da assassini incalliti, da manovali della morte. Hanno ammazzato i 12 uomini e ora sicuramente dormono da qualche parte, senza rimorso, senza emozione. Forse non è vero, no. Forse non è nemmeno così, forse qualcuno si rivolta nel sonno, disturbato da qualche incubo, eh? Forse un altro agli occhi spalancati non riesce a mandar giù l'immagine di quei 12 corpi che cadono. Ma non possiamo essere indulgenti con loro, no? Loro sono feroci come delle bestie, peggio, fino alla stupidità, guidati da un odio assurdo, un disprezzo per gli italiani, tutti gli italiani, specialmente dopo l'8 settembre, che accomunava in quel periodo quasi tutti i soldati tedeschi. I Tucker era il nome per noi italiani. Un dispregiativo per tutti noi, lo stesso dispregiativo che useranno 10 anni, 20 anni dopo per i nostri immigrati. Morti. Sono tutti morti. Sono tutti morti. Sandrina corre verso la casa, la strada. Vede arrivare due contadini che erano scesi da Badia, ormai liberata, per recuperare una bestia lasciata al Sardella. Si mette a urlare che l'aiutino, che l'accompagnino in quella radura, il doccino, dove li hanno ammazzati tutti, dove sono tutti morti. Uno dei due, Elio Nannetti, è tra i più lucidi testimoni di quello che avvenne dopo. Ed è grazie a lui, a Luigi Sardelli, al figlio Adorno, a Arnolfo Bagni, la loro memoria e anche la nostra. Ricorda i corpi in fila, Elio, straziati. Ricorda i loro portafogli buttati sui corpi morti, vuotati dagli assassini. Il bottino della mattanza. I magri risparmi che gli uomini erano costretti a portare sempre addosso nella paura di uno spostamento, di uno sfollamento improvviso. Ladri. Ladri. Poi ancora strazio, dolore. Vorrei risparmiarvelo, ma qualcuno tra di voi lo rivivrà per la milionesima volta, lo so, e gli chiedo scusa. Ma tanti forse lo sentiranno per la prima volta e ne vale la pena, credetemi. E poi per un giorno intero quei corpi d'uomo sono rimasti lì. Lì. Lì. Troppo pericoloso andare a prenderli. I tedeschi sono ancora lì sul poggio di fabbrica. La battaglia ancora in furia, ma c'è chi da Pratale giura di aver sentito la sventagliata di mitra che quel pomeriggio di lunedì 24 farà proprio a fabbrica altri 3 morti. Ne mettono al muro 4, anche qui senza nessuna apparente ragione. Uno è solo ferito, si finge morto e sopravvive. Rimangono lì nel caldo soffocante della fine di luglio, quei corpi, per tutto il lunedì. Poi il martedì mattina Elio Nannetti, Luigi Sardelli e altri aggiogano a 2 carri proprio i 2 paia di bovi lasciati dai tedeschi al Cresti e al Gori e scendono verso la radura e cominciano a tirar via quei corpi straziati, quei corpi d'uomini da lì. È una fatica immane, uno strazio tra il dolore per gli amici morti e l'odore di morte che piglia lo stomaco, che fa sputare e bere qualcosa che per tutta la vita non si dimenticherà. Caricano 6 corpi per carro, un lenzuolo, una coperta e via. Con le bestie che mugghiano, torcendo il capo, quasi ferendosi alla cavezza per via di quell'odore. E poi via, via verso Badia. Verso Badia, lentamente, nel sole. E poi il grido di Sandrina. Sandrina, che corre dietro ai carri. Ha in braccio i vestiti buoni di Carlo e di Giuliano. Vuole che si rivestano i corpi con quegli abiti della festa. I soccorritori non sanno che dire. Nessuno può maneggiare quei corpi. Ma Sandrina insiste. Alla fine le promettono che qualcosa faranno. E ripigliano il cammino. Non è finita. No, non è finita la Via Crucis. Sulla strada c'è il farinaio spudorato. Serio, minaccioso. Se non ci fosse sopra quelli che ci sono, li ammazzerei ora codesti bovi. I carri lo superano e lui sparisce dietro la prima curva. Nessuno da allora gli ha più chiesto conto di nulla. Adorno Sardelli è un bambino di 8 anni e sta alla finestra di casa sua. A guidare i buoi c'è anche suo padre, Luigi, e la madre e la zia scendono in strada. Scostano la coperta, il lenzuolo che copre i corpi, e per un attimo lui vede. Vede? Vede qualcosa che gli si stampa, gli si marchia come col fuoco nel cervello, ma che poi non riuscirà mai a dire compiutamente, che giudica impossibile da trasmettere. Il resto è la gente di Badia che ha appena finito di far festa per la libertà ritrovata, per la fine della paura che invece ripiomba nel lutto, nella morte, con quei due carri stracolmi d'orrore che passano sotto le mura del castello. Nel cimitero ci si affretta alla sepoltura, si scavano le fosse, i corpi avvolti in coperte. Mirella si ricorda una copertina a righe, poi un pochino di terra e basta. Durante le esequie un colpo di mortaio tedesco cade proprio sul muro di cinta del cimitero e si evita per un niente una nuova strage. I sopravvissuti nel frattempo si sono spostati nelle cantine della fattoria. Le bambine sono lì dalla mattina di lunedì, tormentate dalle pulci e dai pidocchi. E proprio come un parassita, come una ferita terribile, una tenia spietata, che da quel momento non darà più un attimo di pace, il dolore delle vedove, delle figlie, dei genitori, delle sorelle, si vestirà della domanda delle domande. Perché? Perché? E per tutta la vita si vorrebbe avere per 5 minuti, 5 minuti soli, anche soltanto uno di quei ragazzi armati fino ai denti che li hanno spinti tutti qui al Doccino. 5 minuti per chiedere a loro perché. Perché? Fossi qui, tu assassino, vorrei guardarti dentro gli occhi e lo sguardo, non abbasserei le tue parole, no, non cercherei chiederti conto di quel che è stato, il modo e il tempo e la ragione, no, non è questione di parole. Niente può dirmi che ha valore, devi conoscermi, devi sapere, prima di dire anche una parola, devi ascoltarmi, devi seguirmi, star bene attento per ben capirmi, voglio restare davanti a te e dirti quale uomo tu hai calpestato, voglio parlarti del mio dolore. Qual è la pianta che hai strappato? Dirti il suo nome ed il mio amore, spiegarti come lui mi ha amato, padre e compagno, fratello e figlio, rosa di maggio, papavero Gio. E voglio che semini il suo grano, che ti disseti col suo buon vino, che tu conosca tutti i suoi passi, che del suo campo tu conti i sassi, impugni l'aratro che trascinava, che senta il peso della sua fatica e asciughi il sudore della sua fronte, che ti disseti alla sua fonte. E solo allora ti chiederai perché, e solo allora mi risponderesti e poi mi diresti davvero il perché, e io saprei che non mentiresti. La storia del dopo non è meno dolorosa, è soltanto un po' meno orribile. La storia del dopo è una storia di dimenticanza, di amnesia quasi totale di quasi tutti. Qualche commemorazione nell'anniversario della strage, la cappella al cimitero di Badia inaugurata con un bel discorso del sindaco Biagi nel ventennale, poi, dopo 40 anni, una lapide sulla facciata del comune. E nel 1996 questo cippo qua. Miserrime pensioni per le vedove e tanta voglia di fare punte a capo, di non farsi intralciare da tanto dolore nell'opera di ricostruzione. La guerra è colpevole. Colpevole la storia che ha messo gli uomini a farsi la guerra. Pensiamo alla pace. E questa imperdonabile leggerezza che è la nostra vergogna di fronte a quei morti è anche colpevole del silenzio a cui le vedove e le bambine di Pratale, i vecchi, si sono spesso autocondannati, convincendosi che era meglio non parlare, non rinfocolare il demone del dolore, una sindrome comune anche a tanti di quei pochi che tornarono vivi dai lager nazisti. È stata la scelta della maggior parte dei sopravvissuti. Maurizio e Ida Raspollini perdono anche il loro campo perché non hanno più le braccia dei figli ad aiutarli. Arnolfo Bagni parla della zia Ida dicendo: l'ha vissuto una vita con la corona. Non passava giorno che non andasse al cimitero. Per lei la vita finì lì. E piangeva e pregava. Ma anche i Gori ne parlano poco. Si ritrovano soli un vecchio e quattro donne alla tavola dove sedevano in 11. E non si parla di quei morti, no, no, lì si piange, si ricorda, ma non si parla. Marcella si sposa 4 anni dopo, la grande famiglia allargata dei Gori permette una ripresa dalle difficoltà fatta di lavoro e di sacrifici. E non ci sono tante parole, c'è solo tanto dolore. Ma è rimasta impressa una sua frase detta a Fabrizio Silei. Sì, diamine. Te l'ho raccontato ai miei marito, ai miei figliolo e poi anche ai miei nipoti, ma sempre, sempre con tanta sofferenza. Adriana Cresti aveva 4 anni quella notte di luglio e non ricorda quasi nulla, ma è l'unica dei Cresti che ha potuto dire qualcosa almeno di quel poco che dice e raccontava la sua mamma Ada, sua nonna Beppa, l'unica perché abbiamo aspettato 50 anni anche a domandare a lei. E quando dice che non riesce a ricordare il viso del babbo Angelo, dice di cosa è stata espropriata, di cosa non abbiamo potuto o forse saputo risarcirla con il nostro affetto, la nostra presenza. E poi c'è Mirella. Sì, c'è Mirella Lotti. Era piccina, 8 anni, ma in casa sua il lutto è stato elaborato in maniera differente. Non si è mai smesso di arrovellarsi, di scandagliare i particolari, i singoli accadimenti, i fatti anche piccini di quei giorni. Sua mamma Ada, battagliera, dignitosa, giusta, non ha mai smesso di cercare quel perché ed è morta senza averlo trovato. E grazie ai ricordi di Mirella, a quello che direttamente ricorda o riporta dei ricordi della madre, della zia Sandrina, che si ha qualche particolare in più, ma non si è fatto in tempo che a domandare a lei. Ada soffriva il suo isolamento, l'assenza di un riconoscimento istituzionale forte, anche se non ha mai voluto mendicare nulla, forte, dignitosa, ripeto. E quando per definire il suo sussidio di vedova di guerra vennero a chiederle se suo marito Giuliano era un combattente per la libertà, un partigiano, disse di no. No, no, che non voleva appropriarsi di qualcosa che non le spettava e disse a chi la invitava a dire qualche piccola bugia. Una bugia. Non si può cercare la verità e poi mentire per 4 lire. La verità. Le domande, la domanda, perché? Mi dispiace, Non ci sarà nessuna risposta. C'è una denuncia nuova, ci sono addirittura delle indagini. Il comune di Tavarnelle le ha volute, quasi imposte alla procura militare. Bene, grazie. Il valore simbolico di questo nuovo fatto è grande e importante. Ci sono addirittura dei nomi. Sì, forse si comincerà a indagare. Si riuscirà a sapere chi erano questi uomini che seminarono il terrore qui e a Fabbrica, ma non pagheranno. Probabilmente sono già morti, molti di loro nel loro letto, nella loro casa. Troppo tempo è passato. Nessuno ci dirà quel perché. Nessuno pagherà per quei 12 uomini, per le loro 12 vite. Dodici uomini di questa terra, difficile e bellissima, ricca ma dura da lavorare. Una terra che ognuno di loro sapeva far fruttificare, sapeva seminare di vita, perché alla vita degli uomini questa terra desse nutrimento. Lavoravano tutti, dall'alba al tramonto, su questa terra che non era la loro, che altri avevano in proprietà, gente che non l'aveva mai lavorata, seminata, nutrita, come tutti questi 12 uomini avevano fatto. E con il loro sangue alla fine l'hanno irrigata. Tutti e 12 schiantati, trucidati, offesi anche nel modo, nella ferocia degli assassini. L'hanno impregnata del loro sangue. E qui, dove morirono, qui, piano piano, dove quel sangue d'uomini si versò, l'erba si fece più alta, più grande, quasi la terra volesse abbracciare con la sua erba quegli uomini che erano suoi, anche se loro non la possedevano. Come se la terra volesse segnare prima di ogni monumento, di ogni lapide, di ogni cippo, il luogo dove i suoi uomini erano stati assassinati. E noi siamo qui, su quell'erba che il sangue ha nutrito, a cercare almeno di riscattare un po' della nostra indifferenza. Quel sangue nell'erba è il colore della nostra libertà, il suo prezzo, senza sconti. Un prezzo talmente alto che in questi tempi che paiono facili, pacificati, si fa tanta fatica anche solo a rammentarcene. E anche chi è consapevole della necessità di tramandare la memoria ai ragazzi, alle ragazze di oggi, ai nostri figli e nipoti, ogni volta che si apre bocca per farlo si sente di non saperlo fare in modo giusto. Si avverte quasi fisicamente il gusto amaro della retorica. Eppure il filo nero di veleno che 60 anni fa assassinò uomini, donne, ragazzi a milioni continua a intossicarci. 91 morti a Oslo 9 mesi fa. Appena ieri 2 senegalesi inermi schiantati a Firenze. È in questi momenti che mi torna in mente il mio vecchio professore. Lo rivedo, lo risento, che ci dice: capire, mai passare oltre, non date nulla per scontato, cercate. E così, per una di quelle coincidenze così puntuali da sembrare magiche, ho ritrovato appena l'altro ieri in un vecchio quaderno uno scritto di Julius Fusik, giornalista e scrittore praghese, impiccato nel carcere berlinese di Blosensee l'8 settembre del 1943. Lui dice: vi chiedo solo una cosa, se sopravvivete a quest'epoca non dimenticate. Non dimenticate né i buoni né i cattivi. Raccogliete con pazienza le testimonianze di quanto sono caduti per loro e per voi. Un bel giorno, oggi sarà il passato, e si parlerà di una grande epoca e degli eroi anonimi che hanno creato la storia. Erano persone con nome, volto, desideri e speranze, e il dolore dell'ultimo fra gli ultimi non era meno grande di quello del primo, il cui nome resterà. Vorrei che tutti costoro vi fossero sempre vicini come persone che avete conosciuto, come membri della vostra famiglia, come voi stessi. Non so se il professor Pagliazzi l'abbia mai letto, ma sono convinto che sono parole che potevano stare dentro una sua lezione. Le dedico a lui, ai ragazzi e alle ragazze che sono qui oggi, a tutti voi e alle bambine di Pratale. Sarà venuta l'ora, pensate bene a quel che è stato, la nostra vita calpestata, ecco la vostra libertà. Noi abbiamo dovuto dar la vita su questa terra il nostro sangue. Siate voi l'erba che ne nasce, siate la vostra libertà.